sono una lacrima che cade e va lontano. Trema d'angoscia e soffre nel vento. Le grida della gente si alzano nel cielo. Per le ingiustizie subite e oppressioni. Nelle celle oscure, prigionieri incatenati. Mai nessuno mai vi fermerà. Alza la resistenza e la lotta più forte che puoi. Alza la resistenza e la lotta più forte che puoi. Kurdistan. Kurdistan. Kurdistan. Kurdistan. Il fiore rosso sul cuore non potrà mai morire. E tu invasore, lascia la terra libera al Kurdistan. I diritti negati un giorno saranno liberi. E il tiranno che vieta la vita non troverà il ritorno. Il suo odio uccide e un giorno si scioglierà come neve. E il Kurdistan riavrà il suo sorriso negato. Alza la resistenza e la lotta più forte che puoi. Alza la resistenza e la lotta più forte che puoi. Kurdistan. Kurdistan. Kurdistan. Alza la resistenza e la lotta più forte che puoi, Kurdistan. Vincere, vincere, vincere, vincere, vincere per la libertà. Siamo la tempesta e come un uragano diciamo basta, basta. Per il sangue versato di gente innocente. Massacrati, torturati, senza pietà. Il Kurdistan vuole pace e libertà. Alza la resistenza e la lotta più forte che puoi. Alza la resistenza e la lotta più forte che puoi. Kurdistan. Alza la resistenza e la lotta più forte che puoi. Alza la resistenza e la lotta più forte che puoi. resistenza è la lotta più forte che puoi. Alza la resistenza è la lotta più forte che puoi. Kurdistan.